7:46 minuti, altri suoni per la presentazione del lavoro appena uscito del progetto Galliano, la band che dopo 30 anni riporta ad altri livelli la musica acid jazz. Halfway Somewhere, il titolo del disco per la Bronzewood Recording. Ho scelto di iniziare questa mini selezione con il brano Off Peace. Sono in copertina nell'ultimo numero di Musica Jazz, la prestigiosa rivista importante per la musica jazz, e per quanto riguarda alcuni commenti che ho letto, grandissimo entusiasmo e attesa, sorpresa e bellezza, anche passione. Oltretutto ho trovato anche alcuni commenti che riportano "ma non è jazz". Ah, non è jazz, ma quante volte abbiamo ascoltato musica con percorsi progressive rock, anche suoni da altre realtà, insomma, e tutto è stato riportato e catalogato come musica jazz. Non vedo perché questa, con improvvisazioni alle percussioni, con improvvisazioni ai fiati, non può essere considerato jazz. Che idea abbiamo? Un passo indietro, siamo negli anni 90, alcuni producer come Eddie Piller, Patrick Forge e soprattutto Gil Peterson fanno ricerca, fanno un lavoro importante per quanto riguarda il rare groove tra funky and soul e jazz negli anni 50 e 60, questo riportato all'epoca, prodotto, elaborato, trasformato sempre con la sapiente visione di questi musicisti, produttori, ha dato il via alla corrente acid jazz con l'intersezione elettronica e hip hop, e anche con uno sguardo importante alla fruizione, una capacità di pop raffinato. Nasce l'acid jazz. Perché Galliano nasce per dare un aspetto colto, altri alti livelli nell'acid jazz. Ve ne dà una ricerca che va da una parte vocale strutturata in maniera molto illuminata, che va ad un ascolto, perché no, forbito, oltre che di contenuti, anche di un gusto. Gusto nella curiosità di riscoprire in dischi precedenti grandi brani come Prince of Peace di Pharoah Sanders con la voce di Leon Thomas, rifatto da Galliano, e tante altre ispirazioni, ma anche produzioni molto originali. Per la capacità di trovare Galliano poi a distanza di 30 anni con questo Halfway Somewhere, che come state ascoltando ha dato una visione di continuità. Non fanno capriole stilistiche, riportano magari con un ascolto e una proposta più legata al momento, però quello che è l'acid jazz con i contenuti e le peculiarità che vi ho elencato in precedenza. Sarebbe sarebbe bello trovarvi in qualche cartellone di jazz club o di programmazione in festival jazz. Sì, questo è un mio sogno particolare. Il disco è molto bello. Il disco, come ho detto, non si rifà a capriole stilistiche. Hanno voluto portare il cantautorale, hanno dato uno sguardo folk, hanno voluto svoltare verso il rock. No, assolutamente, hanno mantenuto le loro capacità e le loro ispirazioni da radice con Talking Loud nei primi lavori, a Joyful Noise Until the Creator e in Pursuit of the 13 Note, i due dischi che hanno aperto la loro discografia. Questi due dischi sono delle pietre miliari per il movimento AC Jazz e non solo. Oltretutto, in questi lavori la presenza e la partecipazione di Mick Talbot degli Style Council. Particolare il ritorno della voce di Valérie Etienne, da sempre presente nei loro lavori, Rob Gallagher, che è il produttore, ideatore di questa formazione. Abbiamo anche musicisti che, per quanto riguarda l'aspetto funk ai fiati, hanno un ritorno dai Push, ad esempio questo saxofonista McCone, che già abbiamo conosciuto in altri lavori, in colonna sonora del Breakfast Club, spesso presenti queste sonorità. Per la precisione, in questo caso alle tastiere, troviamo altri musicisti importanti, la produzione di Robert Gallagher, oltre che alla sonorità di complessa struttura tra elettronica e i suoni che vediamo protagonisti in questo lavoro, Halfway Somewhere per Galliano. Brosswood Recording è la label parallela alla Talking Loud di Gil Peterson. Can make of it something to make my somebody nearer to the somebody else's of yours and call it a world. Questa la troverete come brano del buongiorno, mi sa, spesso e volentieri. Dancing Your Hometown da Halfway Somewhere, Galliano. Keep on rocking, and rocking and go. If you got a willing will, we got a show. Planets aligning, see we better sign in, see we come again. Go tell your friend, got the boom bap brothers, something gonna move. Deluso dalla musica alla fine degli anni Ottanta, in quanto ascoltavo unicamente produzioni vecchie per Philly Sound o per Motown o alcuni lavori di funky jazz, mi ritrovo in dialogo con un ascoltatore con qualche anno in più e giustamente mi dice: ma come, adesso ci sono lavori come Incognito o Galliano che sono per il tuo gusto fondamentali? Galliano, Incognito, la mia risposta è stata: ma come, ti ho appena detto che non sopporto la musica italiana. Ma no, sono le sonorità jazz. Era il 1989-1990 quando si cominciava a parlare di tutto ciò. Si continua con Alpha Way Somewhere per Bronzewood Recording. Loro sono Galliano e questo è il loro ultimo disco. Grazie per l'attenzione e a tra poco con il Move to Groove. Dopo questo strano altri suoni ci risentiamo con professionalità, perché è il tema della puntata odierna. A tra poco. We'll be right back.